capito? Perché sono al computer. Ma se vengo. Io ti ho detto. Ho detto, credo al computer e c'avevo il volume basso, non ho sentito. Quello che dicevo, c'è che mi vuole fare. E non c'è fatto questo, lo devo fare. E piano non ho la stufa, non c'è. Adesso c'è anche la stufa. Infatti, non è per quello che la stufa. Infatti quello di Bururi, cazzo, ma girava la macchina, ripulti, vai, è sulla tasse brutta, cazzo, non si può sbillare, è la sapata di prima, no, si può spegnere, così. E lì intanto devo andare a pigliare un sacco di collante, che macchina non mi ha pensato di più. Tutti i mattonelli che mi ha cavato, tutti, per sempre, e poi Marco mi deve andare a portare la fotografia che è la sua scuola. Ci diremo che non mi mandi una ricetta, sennò è un casino, vedo ci sono le diverse. E ti dia l'appuntamento. E va bene. Tanto dovrebbe risultare alla scuola guida quando gli do la fotografia che mandano tutto a Roma se me la fanno lì o no. E penso che sia a mandarli a lì, a rifiuti. Saranno quelli invalidi brutti fino a quasi tutti. E all'autoscuola sono andati. Mi hanno chiesto la patente e la tessera sanitaria e si è arrivato la porta occulta. Io se dovevi mandare a Roma, no? E più una fotografia e 87 euro. Adesso la fotografia gliela devo portare mercoledì, il giorno prima, ma adesso è giovedì, devo andare a fare la visita. Oh, alla scuola guida, cazzo! No, bisogna vedere se mi passi nella scuola guida, compresa che mi dica tutto dal computer. Di una coppia. Cucci. Marco, e tu chi sei? Ciao, segnale un po' basso, dove sei? Anche a te ti ascolto più o meno così, eh. Io sono in macchina, a Sassari, e tu? Ma chi sei? Questa voce non mi è nuova, eh. Marco Scorpion, monte parte alta. E ho detto, ma questa voce io la conosco. Ciao, buonasera e ben sentito. Aspetta che il prossimo passaggio controlla, più o meno in zona 5455, sono a Pedanieta, sto partendo adesso, movimento. Vabbè, già sa che è un antennino, è una cosa, è un'antennina di 60 cm, non è un'antenna, non è un'antenna lunga, è una macchina piccola, stava male, ha un pennone, capite? Allora ho preso questo, ho costruito un'antenna di dimensioni sopportabili, dai, esteticamente. Già l'ascolto, ciao Marco. Qui, ciao Natali. Ma Natali, tu che mi hai sentito anche con l'altro apparato, ho cambiato. Ho cambiato radio, com'è questa come modulazione? Sì, già va bene. L'altra forse era più. Aveva più dei bassi. Mi siedo con un nano, mi metto a fianco qualche nanetto. Questa più squillante. Vabbè, per la radio se è squillante arriva un po' più lontano. No, va bene Marco, la radio, va. È una radio cane questa, radio cane, non so se, vediamo se indovini che radio è. Gianfra, che radio può essere una radio cane? No, è che cane è, nel 68 non è un cane, e al limite può essere un momento di contestazione, quella è una radio di contestazione, dice che radio è? Una radio in periodo di contestazione, 68 e va bene, questa invece è una radio modello cane. Questo è il modello gatto qua. È modello gatto? Non lo so, che modello è? Modello miau miau? Se lo vedi ti metti a ridere. Mica lo sa Gianfranco, mica l'ha visto. E che radio è? Che radio è? Uno di quegli omologati Goldat, che se sempre una scatola di fiammiche così. Però va bene, mi Natali, c'è una bella modulazione, lo sai. Non sembrerebbe, mi, se tu adesso mi dicevi che stavi usando un 440, ci avrei creduto. Comunque, questa è modello Pluto, con le orecchie lunghe. Sì, ho capito, con le orecchie lunghe. Vabbè, Pluto, non ho capito. Ce l'avevo, gira, ho detto, beh, allora ti piazza in macchina, così impari. Allora è un cane da caccia quello. Ah, non ne hai idea quanto è comodo. Pensa che io da fuori lo fischio e lui mi apre la portiera e me la mette in moto, già è uno spettacolo. Intelligente, che c'è un cane da, di quelli seri, non è, è tutto, non è scherza. Beh, allora te la fa scaldare, tutto. Certo. Gianfra, tu che cosa stai usando invece come radio? Niente, non lo sento più. Non lo sento più, adesso sono in zona dolce e con il latte. Manco io l'ho sentito, non ha parlato Gianfra. Oh, Natali, va bene quella radio, modulazione perfetta. E in macchina sai che è sempre rumore e cose varie, ti ascolto in maniera spettacolare. Sì, gli ho messo un MB4, il microfono suo, se non lo attaccavo alla bocca non mi sentiva. Si sposa alla grande, si sposa veramente bene. Praticamente è a 5, è basso, perché quasi si muove i sensori. Mi ho messo questo qui di 2 cm, perché se no distruggo. L'altro apparecchio non lo posso usare assolutamente. Accidenti, i vicini è sempre così. Magari non sei tu che disturbi, ma sono loro che ci hanno impianto a far schifo. E come antenna poi come avevi risolto lì, Natali? Una 5 ottavi ho messo di quelle leggere. La mano mi ha messo un pigiama nel manco, come quella di Marcolino Contore. Se vedi l'attreccolo si fa vedere cosa abbiamo dovuto fare per mettere quell'antenna. Mi ricordo, mi avevi detto che c'era un po' di problemi. Sì, tipo BA27, quelle con i tre radiali che sembra tipo l'antenna delle VHS. Sì, una cosa del genere. Vabbè dai, però comunque insomma ti permette perlomeno di farti sentire, dai. La modulazione è buona, piccola, radio questa comunque va bene. E a splatter come se, dov'è splatter? Tanto non è mai nessuno da splatter, la splatter ce ne sono. Anzi, il pericolo è che la lascia accesa e sembra che non entra mai nessuno. Sinistra, che l'hanno fatto morire questo canale. Ci sono io e non sta entrando più nessuno. Qui sul 23 entrano qualche volta. Allora io me ne accorgo perché prendo i colpi con questo qui. Con l'altro non sentivo volare una mossa, ma con questo lui. È il Goldatex 4008. Di quelli omologati, non ha smitter, non ha niente, qua mi si rompono così le scatole. Vabbè, d'altronde la radio, la gente la radio della grande passione, la radio non rimane quelle che erano veramente funzionate come fantastica, che passione forte, veramente sì, già lo so. Io c'ho il lobby del tiro, ma mi hanno chiuso il campo da poco e quindi non posso andare manco a sparare, ma va. No, il poligono no, io andavo a un campo di tiro a fare tiro dinamico e era fisso in località La Crucca. Ah, quello che aveva la gestione, quello dell'armi. No, si chiama Gentiusai, l'istruttore che c'era, che si occupava di quella struttura. La struttura non era la sua, che era di un certo Giovanni Chiava. È vicino a una cava c'è vicino, dove fanno cemento, queste cose così. Gianfranco entra collega suo, quello che abita lì in zona Scandia, là. Ma qui io non ho possibilità di ascoltare nulla, capito? Sono stato sfortunato per la storia anche della patente, se no non sarei stato qua. Facevo io là, io mi divertivo un sacco quando ero vicino a te e potevo mettere quello che volevo. Io ho abbandonato perché sono dovuto venire via da lì, mi sono sposato e cosa... Non ne ho più radio, no, radio non ne ho più, prima ce le avevo, adesso non c'ho più. E allora no, avevo abbandonato tutto con la scusa che non potevo piazzare antenne e tutto, capito? C'avevo un piccolo multipanda in campagna, che si vede qua. sopra 5, nuova nuova che se ne sta ridendo. L'avevo piazzata pochi mesi prima di andarmene, sopra un palo da 12 metri. Allora, a me la porta pure via. Guarda che non si è partito quel filo che collegava il tutto. Può essere... Non è che hai attaccato troppi bratti, hai cotto la cosa. Quella... Buonasera, ciao Marco Scorpio. Ciao, ciao Marco. Ebbene, Nataloide. Allora, cosa mi racconti? Via. Domenica a casa. Poi mamma. Vabbè, tutti messi a valle siamo. Lì c'ha la benda sopra il sopracciglio di come era caduta. Io ho la benda che gira tutta la testa. Sembriamo due terremotati. Ma usciti da un incidente. E vabbè, domani non dico che ce la togliamo, ma... Poi devo fare analisi, un po' di analisi natalizia, esami devo fare, o tiri mi mandano, pensa, devo prendere appuntamento. Dove ti mandano? A Uccieri devo fare le analisi. C'è l'occhio sinistro che è un po' sofferente. Ok. Ma incidente in macchina avete avuto? No, io ho un neo infiammato sulla testa e ho rasato un po' i capelli, l'ho lasciato un po' così libero. C'ho una benda, una gargia sterile e poi una benda intorno. Mamma era caduta per conto suo a piedi. Niente, c'è un taglietto sopra il sopracciglio, tutto lì. Sarà già guarita quest'ora. E io prima, eccola, la vestitia. E quindi devi andare a Ostiglia a fare... Speriamo che adesso mi lasciano la patente, devo andare a rinnovarla, giovedì. Tu hai gli occhiali? io che sono mezzo ciecato, così c'è un po' il fondo dell'occhio leggermente un po' bianco, boh, non lo so, ma io ci vedo, anche guidando ci vedo, solo che questo medico è scrupoloso, quindi devo fare oculografia, risonanza magnetica alla testa e anche una, come si chiama quello, esame neurologico. Secondo lui c'era un po' di sofferenza del nervo ottico. Che palle, mai fossi andato a fare questa visita. No, a me non è il fatto degli occhiali, no. È il fatto che io adesso sono invalido sensibile e sto ottenendo che mi mandi una risposta. Capito? Adesso vediamo, il mercoledì mi porto la fotografia e penso di mettere a pratica, perché giovedì devo fare la visita. 87 euro. Ehi, ma tu per il cuore sei invalido civile? E infatti non pensano che mi mandino, però se risulta al computer ti mandano lì, capito? Ehi, ma quanta gente che guida che ha avuto un infarto? Non credo che solo per quello te l'annullino. E vabbè, io mi volevo fare semplicemente un paio d'occhiali, però così, guardando il fondo dell'occhio era un po' incerto che seccatura. La cosa positiva è che mi hanno detto che non pago niente, è come se fossi ricoverato. Forse in un giorno e mezzo finiscono tutto. E io a fare da cavi a me. Sì, a fare da cavi, però sono visite che si devono fare, Marco, e cosa vuoi dire? Adesso io sto pensando che non voglio fare tornare a quelle visite che ho fatto al cuore, no? Perché adesso a giugno mi chiamano, tornano, e io gli do il certificato perché sono di quest'anno. Più recenti di quelli, io ho fatto il 16 febbraio, non penso che abbiano una scadenza. E beh, se le fate a febbraio è molto vicino, non saranno così pignoli, no? Vabbè, Natali nessun altro c'è, no? Prima c'era Franco California, c'era la barbecue acceso. Adesso devo togliere il pizza dal forno e mangiare, dai, poi inizia Bonolis, quindi già lo sai, no? Che ti devo abbandonare. E il giorno che ti fermo ti tiro a un ginocchio, così fai, così sì, anche dopo. Eia. Ah, cieco, zoppo e finocchio pure. Ah, anche finocchio. Ah, ciao Franco, mi tieni compagnia Natalino che io purtroppo devo chiudere. Devo tirare fuori dal forno anche le pizze, dai. Un salutone, dai. Buon proseguimento di serata, dai, ci sentiamo. Vai Natali, riprendete voi. E ciao Marco, grazie per le quattro chiacchiere, alle tue. Oh signor Franco, riprendi. Aspetta, Franco, mia moglie deve dire una cosa. A te l'immagine che mi lascia solo questo cuomane di coso, di Marcolino Condo. Ehi, aumenta un po'. Tu già sono segni di vita, ma ancora non si è vista. Già sono vista. Il dubbio aumenta. Io non è faccio, sai che disturbo. Tu la usi e boh. Marco Scorpio mi ha detto che c'è una bella modulazione, quindi non c'è problema, ce l'ho a 5, non è alto neanche, a chi ho sacchi di cubo, io dico di disturbarlo, perché questi hanno le antenne incasinate e si beccano tutto quello che gli manca. Ehi, fallo, che sto dicendo, chiama quando hai finito. Natalino Cuocuomane, un briacone tragico. Hai visto che ventaccio oggi, Natalino? Ho detto, chissà che sia la volta che ne scende la scena, così ci butto tutto. Maledetto. Invece deve rimanere bella dritta, rigida, la scena, così non ce la puoi buttare. Ecco, così impari. Ti ho dovuto mettere anche il cappottino, stamattina stava anche piovendo, non solo l'altro. A cui? Adesso te ne racconto una. giornata lì. Ho venuto l'8009, no? Yesu. In perfetto stato, funzionante non in sua parte. Perfetto, se no non l'avrei dato. Gli arriva, primo giorno, sì, tutto bene, poi lo prova bene, dice che il volume dal lato sinistro della banda sinistra non funziona. E com'è possibile che la roba la do buona e poi arriva la cosa e non va bene? O hanno maltrattato il pacco, l'hanno sbattuto, boh. Io gli ho detto a quello, mi sono giustificato al compratore, solo che poi non ci crede che era integro l'apparato, capito? Sì, l'avranno... ma lo sai che li buttano col bilancio, come fa? Cazzo, infatti è quello che bisogna temere, che quando la roba arriva da fuori, che li bilanciano, no? Quando poi cadono magari si trova qualche colpo e giustamente... gli succede quello che gli succede. Già lo so che era buono quello che avevo buttato. Se avessi buttato i soldi me l'avrei comprato io, ma lo dammi nei posti tanto, non c'è nessuno, non compro più nulla. Perché non c'è nessuno, non riesco a vendere i miei. Ne ho venduto solo quello col display blu. Ma quello B, quello... quello piccolino. Ah, ecco perché non capivo, credevo il baracchino, che baracchino ha col display blu? Ho capito. Vabbè, no, non mi ha chiesto nulla il tipo di restituire, perché tanto a parte che i soldi me li sono già spesi, non è che io non ne ho introiti. Casomai cambierà il potenziometro, non è grave, però caspita, te lo dai al corriere e te lascia vedere già la roba. Io presumo sia il corriere, che se qua era buona lì c'ha quel difettino, però bisognerebbe quasi assicurare le radio, lo sai quando le mandi, assicurarle. Se la radio non funziona, no, sono in caso di furto ti pagano, lo sai, se no non ti pagano nulla. Sì, maledetti, e allora cosa si vuole già fare? Infatti spendi un bel di soldi, spendi in base al valore, più soldi e non vale l'assicurazione. Mi è dispiaciuto però, ci sono rimasto male. Adesso, boh, vediamo, magari ha preso una cantonata, ma l'apparecchio lo conosceva già. Palle, guarda, quando succede così, perché poi magari c'è il passaparola, dice mica che quello vende roba inficiata. E vabbè, cosa vuoi ti dica? Ecco perché, no? Ecco perché io lo volevo vendere di persona a Sassari, vendere qui a Sassari, che almeno lo vede sul momento, lo prova sul momento, non c'è corriere di mezzo e tutto va bene. Oh, è pure troppo forte. Vai lì netto, forse sei tu che dica che cosa. Saldaglielo e poi parli, se lo tocchiamo le mani magari gli fa lì netto. E inoltre Franco è un po' vibrata come radio, è vibrata, capito? No, adesso no. Cosa stai usando? Un AM International? No, dico il baracchino. Quelli lo fanno, quando spingi un po' lo fanno, bisogna aprire il trimmer della modulazione, anche a me lo faceva quando mettevo il microfono amplificato, allora ho aperto tutto il trimmer della modulazione e è andato bene, ed era limpida dopo. No, no. Innesco forte, cioè non innesco, scusa, alternata. alternata forte. Natalì, un attimino, è iniziato, dai, io vado a vedermi il programma, dai, vi saluto, fate le prove voi, dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao. Che stai netti, sì. Ho sbagliato resistenza. Vabbè, io devo chiudere che è arrivata gente qua. Sentiamo domani allora.